sorrideva nei suoi occhi color pianto, un uomo che non vedeva. Eppure quel giorno in quel prato mi disse sarebbe tornato. Eppure quel giorno in quel prato disse che non mi avrebbe lasciato. Fumava piano lungo coltello l'ultima briciola di sigaretta, tratteneva pure il fiato per non finirla troppo in fretta. Tutto gli sfuggiva di mano come una donna che non aspetta. Tutto gli sfuggiva di mano come tagliato da una lancetta. Lazzaro morì 20 anni fa sopra un tavolo di marmo. Tu credi e credi forte che tuo Dio ti salverà. Lazzaro aspetta e credi forte che il tuo Dio ritornerà. E tu prega che dalla morte nuova vita ti darà. Libertà ritornerà, libertà ritornerà. Con gli amori, i sogni e le stelle, libertà ritornerà. Libertà ritornerà, libertà ritornerà. Gli occhi azzurri, i capelli verdi, libertà ritornerà. Il poeta di cose perdute scriveva versi alla sua donna. Mesi lunghi di illusioni cadute, innamorato se l'era bevute. Adesso si è ammazzato, c'erano cose che non capiva. Non scrive, si è accettato insieme alla gente che aspettava. In un mondo di uomini uguali, Alan sta con la sua testa. Dorme poco, sogna sempre una grande riscossa. Vi farò tutti liberi come un petalo di rosa. Vi farò tutti liberi, però manca ancora qualcosa. Tancredi, che cosa hai fatto la notte di Gerusalemme? Con la spada da guerriero tu hai sfondato la pelle. Che non aveva svelato il nome che t'ha innamorato. Ma dici cosa hai sentito quando hai scoperto chi avevi ucciso. Libertà ritornerà, libertà ritornerà. Con gli amori, i sogni e le stelle, libertà ritornerà. Libertà ritornerà, libertà ritornerà. Gli occhi azzurri, i capelli verdi, libertà ritornerà. Azzurri, capelli verdi.